c'è qualcuno qua. E vai, vai. Oh, boss. Oh, a cosa ottava, a cosa, a portatore, da tre parti tu non intendi. Perché sei nascosto tu. E allora la zona... Chi è avanti? Lucrezia, tu sei? Sveglia, Caffè Mauro. Andiamo bene, andiamo. Andiamo bene, andiamo. Babbo. Acchisio, Acchisio. Gigante. Marino. Marino. Oh Luca, buonasera, avanti. Al 23 vieni. Ti sento un po' marino, Ma sono il soletto, non è entrato nessuno, no? Canale 23, in 27. Non c'è nessuno, è acceso adesso. Sono lì solo, tutti quanti. Sul 27, sul 23. Sto arrivando subito, un attimo. Attento, Marino. Ma chi? Ma chi, Gio? Vai in 27, siamo in 27, Marino. Ok, sto andando, dai, ma non so, sto arrivando. Dammi!